Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza dei produttori di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda prima trattata, ma è la mia vita. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. Diciassette in punto, 5 secondi. Come ogni domenica ritorna in onda Caffè Doppio. Sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Tutte le domeniche dalle 17 alle 18 per cercare, almeno provare, di svegliarvi, no? Ma vi lasciamo all'ascolto di questo brano di Kill Time. Forse stavate aspettando il titolo. The Kill Time, She Gives Me ACDC. Down My Spine. E alle 17:02 minuti siamo di nuovo in diretta qua, Caffè Doppio. Sugli 87,9 di Radio Onda Rossa ascoltavamo questo primo pezzo dei Kill Time, She Gives Me ACDC Down My Spine. Siamo in compagnia di Stivo, va bene Stivo? Sì. A posto. Bene, chitarra e voce dei Kill Time, a rappresentanza anche degli altri due, che intanto a inizio puntata io saluterei perché in questo momento non purtroppo... Sono degli onesti lavoratori, sì. Lavorano anche la domenica. Per pagare le tasse, stanno, certo, stringendo la cinghia. Soprattutto, come ci ha insegnato il buon Monti. Sì. Allora, intanto siamo in compagnia di Stivo, con cui ci faremo questa mezz'ora di chiacchierate, di ascolto di un po' di musica, a cui chiediamo di presentare questo pezzo che abbiamo appena ascoltato e anche di fare un quadro generale del gruppo con componenti, genere e quant'altro. Appunto, Down My Spine, che è la seconda traccia del nostro primo 7 pollici, Weird Tales of a Broken Heart, uscito nel 2009 per la Tin Punk Records, questa etichetta spagnola, unica etichetta che in quel periodo ci ha degnato di considerazione, diciamo. E, per il resto, appunto, il gruppo come è composto? Mi dicevi prima siete in tre. Siamo in tre, siamo un power trio. Sono io alla voce e chitarra. Poi c'è Tommy al basso, che è l'ultimo acquisto, diciamo, della formazione. C'è Marco alla batteria, che suona con me dal 2004, alla fine del 2004. Ok, e vabbè, come è iniziato il vostro progetto musicale? Allora, Killtime nascono nel 99, abbiamo suonato dal 99 fino al 2004, una prima formazione. Poi abbiamo avuto, diciamo, questo breve periodo dal 2004 fino al 2007, in cui ci siamo riformati con la formazione totalmente rimaneggiata, e per un concerto che doveva essere data unica, e poi c'è stata... abbiamo, insomma, preso la decisione di continuare. Poi è nato Facebook. Sì, certo. È nato Facebook, MySpace già. Maledetto Facebook. E abbiamo continuato, insomma, siamo andati avanti fino ad oggi. Ho capito, senti, io direi che ci possiamo ascoltare subito un altro pezzo che ci scegli tu e ci proponi. Sì, io proponi. Resterei sul 7 pollici, la seconda, All Over. Va bene, sempre di Killtime, All Over. Ricordiamo ancora i nostri contatti 06 49 17 50. Uno squilletto per il Kill Time, altrimenti un SMS al 342 357 4357. Ancora in compagnia della musica e delle parole dei Kill Time alle 17 e 8 minuti 13 secondi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, l'inizio di una nuova puntata di Caffè Doppio. E allora direi subito di continuare questa, sì, breve intervista, certo, con Stivo. Continuiamo con il mono del Power Trio, che ormai dobbiamo salutare, abbiamo già salutato gli altri due, e andiamo avanti. Io parlerei un attimino delle influenze e quindi di tutta la prospettiva musicale, di tutto quello che avete assorbito prima di produrre questo CD, questo sette pollici. Ma le influenze sono... Noi nuove generazioni, sette pollici, non ci, sì, ricordiamo. Sì, roba da vecchi. No, che ho avuto una defiance, un attimo ho detto, oddio, sette pollici. Un vinile. Sì. Vinile, quello piccolo. Allora, no. Niente, le influenze, diciamo che abbiamo preso ispirazione da quelli... Ho preso ispirazione anche perché sono, diciamo, l'unico che compone, che scrive pezzi, da gruppi della scena americana di metà anni 90, soprattutto l'etichetta Lookout, quindi parliamo di gruppi come Queers, come Screeching Weasel, Mr. T Experience, e poi soprattutto diciamo dai maestri, quelli che hanno insegnato a tutti noi quello che è questo genere, che sono i Ramones. Certo. Ma te ti rifai un po' allo stile di vita del che tutti, cioè nel senso uno pensa al panchettaro, no? Ai Ramones, pensa a uno stile di vita, no? E tu ti rivedi in quello stile di vita? Guarda, io conduco una vita normalissima, mi sveglio la mattina. Quindi sfatiamo questo mito che Ramones vuol dire sesso, droga e rock and roll e tutto il giorno fatti. Purtroppo no. Non ce lo possiamo permettere. Io, come tutti gli esseri umani, mi sveglio la mattina, vado al lavoro, poi torno a casa, poi quando ci sono le prove vado a provare. Monti sarebbe orgoglioso di te. Infatti. spero che ascolti questa intervista. Insomma, immagino anche dalle influenze, diciamo prima fuori onda, la mia domanda preferita. Dimmi. E il fatto di scrivere pezzi in inglese. In inglese, non in italiano. Beh, come appunto ti dicevo prima, è stata soprattutto diciamo un'abitudine il fatto di ascoltare quel genere di musica cantato, suonato da certo tipo di gruppi, mi ha portato comunque a comporre in inglese. Inglese pedestre, però insomma quello che è. Anche perché l'italiano secondo me non è una lingua adatta per questo genere di musica. Lo trovo abbastanza banale, non che quello che io dica in inglese sia scienza infusa, insomma, però come però dire, suona meglio. Benissimo, senti, io visto che ci hai portato un sacco di musica alla fine, insomma, abbiamo diversi CD, ti propongo di ascoltarci un'altra traccia ancora. Un'altra traccia, allora, questo è uno split uscito nello stesso periodo del 7 pollici con altri gruppi. Si chiama Revenge of Punk Rockers e non lo so, io sceglierei. Questa è una cover che è stata diciamo fatta da gente come Elvis, come Johnny Cash. Il pezzo si chiama I Forgot to Remember to Forget. Noi l'abbiamo rivisitata in chiave pop punk. Ho capito, quale traccia è così? Ed è la traccia numero 3. Perfetto. I'm ancora 87,9. Qui il pubblico è un po' moscio, ma io voglio essere ottimista. E credo che quando abbiamo detto il numero di telefono e degli sms stessero ancora dormendo. Tu che dici? È possibile? Vabbè, siamo molto... caffè doppio apposta. Vabbè, comunque... per svegliare tutti, no? Sì, e perciò il numero, noi ve lo ripetiamo, 06 49 17 50 è il numero per chiamarci in diretta, 342 357 4357 invece per scrivere sms, ma siamo ancora in compagnia di Stivo, Kill Time, di cui ascoltavamo una traccia dall'album Punk Rock Revenge. Revenge of Punk Rock. Insomma, ho invertito un po', però la proprietà commutativa, no? Non vale per tutto, cioè nel senso non no. È... Ah, è arrivato uno squilletto. Adesso, dai, ci è piaciuto. Un applauso. Un applauso. E allora, continuiamo questa chiacchierata. Quello che mi piaceva chiederti era come affrontate il mondo dell'emergenza, nel senso come vi rapportate con le etichette, cercate un'etichetta, non cercate l'etichetta, vi autoproducete? Ma diciamo che da quel punto di vista siamo stati quasi sempre abbastanza fortunati, quindi non abbiamo dovuto ricorrere al cosiddetto DIY. E niente, vi sono presentate occasioni di... Cioè di proposte? Sì. Ma no, ti dicevo, siamo sempre stati abbastanza fortunati. Cioè comunque abbiamo mandato in giro il nostro materiale, abbiamo avuto comunque sempre risposte dalle etichette. E poi appunto dal punto di vista di mandare in giro il materiale, volevo sapere anche come vi rapportate nel mondo di internet, quindi dei download e del mondo della pirateria. Ormai questo nome, cioè ti giuro, tipo fantasmino sopra di me, la pirateria. Ma diciamo anche da quel punto di vista non abbiamo mai avuto problemi, abbiamo sempre comunque messo tutto online, abbiamo lasciato che la gente rubasse il vostro materiale, se lo mettesse online senza chiedere nemmeno il permesso. Sì. Questo aneddoto, questo sì, che ci hai raccontato prima. Vabbè, io diciamo che... questo aspetto lo vedo molto positivo, perché è denotazione del fatto che l'obiettivo è diffondere il più possibile la musica. Anche perché il nostro mercato, diciamo, è quello che è. Noi in genere il disco lo vendi durante i concerti, non è materiale, diciamo, che ha vendite, grosse vendite, quindi è una cosa più al dettaglio. Sì. Ma tu pensi che il mondo italiano, cioè il mondo musicale italiano sia adeguato per il genere che fate? O secondo te ci sono spazi che sono più aperti appunto a questo tipo di genere, che ne so, l'Inghilterra piuttosto che gli Stati Uniti? Ma l'Italia secondo me è sempre stata un po', come dire, indietro rispetto a paesi come gli Stati Uniti o come l'Inghilterra. È un genere musicale che è ancora un po' troppo di nicchia. Poi insomma, sì. Viviamo... Sì. No, sicuramente è un genere, tra virgolette, di nicchia, nel senso che comunque ci sono tantissimi italiani che ascoltano questo genere, eppure lo passano tutti come un genere secondario, che sta lì, sta un po' nascosto, più chiamato underground che altro, però penso che di mercato ce ne sia qua in Italia, almeno io per quello che vedo ce n'è, ma non viene mostrato più di tanto, molte volte li nascondono, sembra quasi nascosti, come se le etichette si confondessero Poi purtroppo quello lì è un altro discorso, nel senso che ormai tutte le etichette sono diventate semplicemente delle società a fini di lucro alla fine, no? Perciò... Parliamo comunque di etichette grosse, per quanto riguarda il nostro giro è chiaro. È comunque una situazione, diciamo, si parla molto, di un altro mondo, sì, quello lì è il mondo ristretto. Del commercio e il mondo della musica, sono assolutamente due cose differenti. E va bene, se per te va bene ci puoi presentare un altro brano. Pezzo. Non lo so, io ritornerei sul 7 pollici e ascolterei la prima, Going Mental, un pezzo un po' più duro. Allora, Going Mental, Kill Time, 0649 17 50. Se la gente si sveglia con questo, non lo so. We'll be right back. E allora erano i Kill Time ancora con Going Mental sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Caffè Doppio. Strano, ancora... strano, il tuo inglese sta migliorando piano piano. Lo so, lo so. Hai imparato a leggere pure inglese? Sì, guarda, è dovuto, diciamo, sai, Darwin, quelle cose che se ti trovi in un ambiente dove ti devi abituare per forza perché sennò muori. Ah, sì, ti adatti. Sì, ti adatti. Esatto. E quindi ti prendi i debiti in inglese. Sono storie lunghe, meglio non parlarne qua in radio e quindi continuiamo. Visto che lo so l'inglese. Sì. Vabbè, direi di andare avanti, in particolare con una domanda riguardante invece il mondo dei concerti più che della vendita delle registrazioni. Ti volevo chiedere se attraverso le tue esperienze cosa hai visto da parte dei locali che propongono musica live, ossia anche quello in un certo senso... Anche in quello si vede un mondo della speculazione di locali che magari cercano gruppi che ti portano tanta gente, guardano quanta gente c'hai, eccetera, oppure ci sono anche diverse persone che puntano a diffondere buona musica. Ecco appunto, allora come diceva lui prima, mi chiedeva la storia dell'aneddoto, adesso mi è fatto venire in mente una cosa a proposito del discorso dei locali che chiedono al gruppo spalla quante persone porti. Noi ci era capitata una cosa come un paio d'anni fa, ci avevano proposto di suonare di spalla i Pancreas, che insomma, e un giorno prima del diciamo del concerto arriva la telefonata del promoter, ci chiede appunto: ragazzi, ma voi riuscite a portare almeno un centinaio di persone? Perché se non se la cosa non fosse fattibile, purtroppo verrete tagliati dalla scaletta. E così è stato. Ah. Cioè, la garanzia di portare un tot numero di persone a una serata per garantire a loro una certa, come dire, tranquillità anche economica. Quando poi in realtà dovrebbe essere il contrario. Sì, dovrebbe essere il contrario. Sì, cioè, nel senso, promoter che fa venire gente, esatto, in modo che, esatto, poi il gruppo ascolti. No. Quindi abbiamo scoperto che in questo mondo il promoter è la band spalla. Sì, in alcuni casi sì. Non in tutti, sì, fortunatamente. Sì. E vabbè, quindi come diceva lui, ci sono comunque degli atteggiamenti live, magari di promoter o comunque di locali che vi danno l'opportunità di suonare senza queste questioni tra virgolette economiche. Sì, quello sì, sicuramente. La maggior parte delle volte è stato così. Poi insomma, il nostro circuito è quello comunque di piccoli locali, centri sociali, quindi posti in cui il problema, diciamo, non sussiste. Ho capito, ho capito. Avete fatto anche per caso date oltre Roma, magari Italia, anche date all'estero? Sì, sì, noi abbiamo il nostro primo tour, l'abbiamo fatto nel 2002, stranamente in un paese, un piccolo paese dell'Europa, si chiama Lussemburgo, e da lì siamo tornati su altre volte, abbiamo girato Germania, Belgio, Olanda. E in Italia, diciamo, abbiamo suonato abbastanza. Recentemente, l'anno scorso, abbiamo fatto il nostro secondo tour italiano di spalla, appunto, ai Queers, con i quali abbiamo fatto questo split, uscito appunto l'anno scorso in concomitanza con l'inizio del tour. Ho capito. Beh, allora questo deve essere una bella soddisfazione, sì, insomma, portare, sì, fuori dal raccordo la propria musica. È stata una bella soddisfazione. Sì, sì, sì. E, beh, io direi che ci possiamo ascoltare un altro brano in dirittura di arrivo, poi un'ultima domanda e i saluti. Boh, allora, Cool Party sempre da Revenge of Punk Rockers, traccia numero uno. Vedi che ho imparato che la traccia me la devi dire. It's a real cool party in a club downtown, where a single fucking cool kid wanna be born and real. Well, it's cool and speech is mean, the cool's right on the chart. Dress up your fuck, man. You can't affect the dance floor. You want it so big and no warnings. It's working you at Ed era la prima traccia di Revenge of Punk Rock. Stavolta l'ha detto bene, eh? Non lo freghi due volte. No, due volte non mi si frega. Allora, avrei cominciando... da ridire. Cominciando a salutare Stivo e i Kill Time, virtualmente anche gli altri due si salutano e, riferirò molto bene. Ti chiediamo a questo punto dove vi si può trovare sul web. Beh, abbiamo una pagina di Facebook che è Kill Time Punk Rock. Mm-hmm. facebook.com/killtimepunkrock. Va bene, ok. E c'è anche una pagina MySpace, ormai è passato. Abbiamo anche una pagina su Reverb Nation, in cui ci sono quasi tutti i pezzi online scaricabili, ed è credo sia 1234 Kill Time. Mm-hmm. Ho capito, perfetto. E allora a questo punto io vi saluterei. Anche a me? Cioè, saluti. No, era riferita ai Kill Time. Io vi ringrazio per lo spazio. Ma grazie a te per essere venuto. E a questo punto ti non mi ricordo più come si dice. Guarda, sono andato bene fino a mo. Ti giuro che ti concediamo. Ti giuro lo sapevo. Cosa volevi dire? Ti congediamo. Sì, ti congediamo. Va bene, usiamo congedare. Ti congediamo. Insomma, ti invitiamo in un futuro, quando ci saranno nuovi progetti, magari. Volentieri. Anche a tornare. Uscirà a breve il nuovo disco. Allora, sarà un piacere per noi poterlo presentare. Sarà un piacere anche per noi presentarlo. Nel nostro spazio. Benissimo, allora, mille grazie, ci salutiamo con un pezzo che ci riporta a casa. Back Home. Back Home, The Kill Time, ciao. No, mi sono sbagliato, vedi? La cappellata la dovevo fare per forza. Se non finisce con una cappellata non gli piace. Bene. A bordello, guarda, niente da fare. Se non sai usare i comandi, non toccare niente. Capito, ma ti sei avvicinato, mi fai ancora un brutto effetto, lo sai. Doppio proudly presents Americani Blue Platforms in our Barack Caracasa Blanca para di Ciuccio. Ma che cazzo hai detto, dai? E vabbè, le notizie di Otrebla. Oh, oggi è una versione un po' diversa rispetto al solito, mettiamola così, direttamente da Siena, dove vi comunico tra l'altro che le campane del Duomo suonano come le campane di San Lorenzo alle 5 e mezzo. Dobbiamo trovare il significato di questa cosa. Bentrovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, con la rubrica che ci va a ricordare com'è bello vivere nel paese dei furbi. Com'è bello far l'amore e essere in giù, vabbè, come al solito, insomma. Il premier Mario Monti si lamenta: il mio governo e io abbiamo sicuramente perso l'appoggio dei poteri forti, non incontriamo i favori di un grande quotidiano e della Confindustria. Ma pensa un po', uno che è stato nell'ordine docente, rettore e presidente della Bocconi, consulente del governo De Mita, consigliere d'amministrazione di Fiat e Comit, commissario europeo al mercato interno e alla concorrenza, membro dei gruppi Bruegel, Bilderberg, Trilateral e Atlantic Council, advisor di Coca-Cola, Goldman Sachs e Moody's, editorialista del Corriere e ora è senatore a vita, presidente del Consiglio e ministro del Tesoro, parla di poteri forti. Ma diciamo allora che il presidente tecnico ha deciso di fare un po' il presidente politico, uno di quelli che qualsiasi cosa accada, dall'unghia incarnita al piccolo foruncolo, danno la colpa ai poteri forti, un po' come fece Moggi ai tempi di Calciopoli, affermando di essersi comportato in quel modo per non essere vittima appunto dei poteri forti. Capiamoci, i poteri forti esistono e come, ma in bocca ai nostri politici assumono il significato di non mi sento tanto bene. Sono dopo, da poco passate le 21 di giovedì all'Ilva di Novi Ligure quando un operaio, Pasquale, perde la vita schiacciato da un muletto sprovvisto di porte di protezione. Pasquale giace a terra coperto appena da un lenzuolo bianco. Ovviamente il lavoro non si ferma, la produzione deve andare avanti. Nel paese dei furbi siamo pronti a promuovere giornate di festa nazionale per la nascita di un figlio, ma per la morte di un povero Cristo operaio no. L'incidente sarà stato considerato un effetto collaterale rispetto alle esigenze dei mercati. Continuiamo insomma a non applicare norme che modificano l'assetto delle fabbriche e che introducano il tema tanto caro della sicurezza sul lavoro. Continuate insomma a fare come cazzo vi pare. Nel frattempo continuiamo a vedere giovani che muoiono in fabbrica per 1000 euro al mese, se va bene. Passiamo a una notizia molto più divertente: il blog di Beppe Grillo è attaccato da Anonymous, ma il movimento si spazza. Il blog di Beppe Grillo è rimasto inaccessibile da giovedì pomeriggio. Nonostante il comico sia convinto che non è opera di Anonymous, la sigla di hacker più famosa, almeno una branchia della sigla di hacker più famosa nel mondo, rivendica l'attacco sul suo sito scrivendo: abbiamo deciso di darti un po' della nostra attenzione perché non apri le tue liste agli stranieri, perché sei un populista che cerca di raccogliere consensi senza arte né parte e perché più volte hai magistralmente seguito il saluto romano sostenendo la politica di repressione fascista. Tutto ciò basterebbe, continua la nota, per giustificare il perché di tanto accanimento. Tralasciamo inoltre, continua Anonymous, la devastazione della barriera corallina indotta dalla miseria che è la tua barca e i tuoi inutili tentativi di riparare al danno proponendone la ricostruzione. Ci chiediamo, in verità, perché non liberi il movimento dal tuo nome. Diciamo che è quello che ci chiediamo un po' tutti, caro Anonymous, persino gli attivisti del movimento stesso, penso un po'. Ovviamente mi scuso con Caffè Doppio, ma non riesco a tirar fuori nessuna freddura da questa notizia perché è sufficientemente divertente da sé. Ebbene, anche questa settimana il paese dei furbi ne ha combinati di tutti i colori, anche se non c'è tempo per poterli elencare tutti. Un saluto a tutte e a tutti da Utrebla e da Siena, a voi la linea in studio. Grazie a Otrebla per le sue news e un saluto a tutti i familiari di quel povero operaio che viene dalla mia stessa città, Novi Ligure. Un abbraccio forte da Caffè Doppio e da Radio Onda Rossa. A questo punto gli 87.9 di Radio Onda Rossa con Caffè Doppio si dirigono verso la seconda parte di questa puntata di appunto Caffè Doppio, una mezz'ora che ci porterà a parlare di sigle di cartoni animati. Per prima la mia preferita, Pingu. 87.9. Voi non sapete che tormento sentirselo tutti i giorni. Americani blu bla, americani blu bla. Andatevi a vedere su YouTube Pingu sottotitolato se ancora non l'avete visto, perché è veramente da ridere. Andiamo avanti salutando a questo punto Cucchiaino, che oggi doveva essere con noi in studio ma purtroppo invece non è potuto venire, ma ci ha comunque lasciato una sua traccia con una sigla che manderemo in onda tra pochissimo. Intanto sono le 17.36 minuti, ancora sugli 87.9. Se a questo punto ci volete chiamare oggi veramente per insultarci, perché insomma mezz'ora di sigle dei cartoni animati sarà abbastanza insopportabile, 06 49 17 50 oppure un sms bello cattivo al 342 357 4357. Andiamo avanti con la prossima sigla. Forza Sugar. Allora, con il sottofondo di Forza Sugar, un gran saluto a due femministe che stanno sul raccordo andando a fare shopping. L'avete voluto voi però, eh? Un bacio. In questo fine settimana che segna la fine della scuola, un abbraccio va a tutti gli studenti che stanno preparando la maturità. Chi purtroppo per un'infamità alla maturità non ci arriva, ma speriamo ci arrivi l'anno prossimo, anzi sicuramente l'anno prossimo ci arriva. Per chi invece come me ci arriverà tra 15 anni. E chi non deve affrontare la maturità, ma gli esami universitari estivi. Purtroppo. E dopo aver ascoltato Forza Sugar, io direi di passare a un altro bel cartone animato che ha segnato almeno la mia vita e credo molte altre vite. E la mia vita di quest'anno, che sto cercando di farmi spiegare dal Wix come è andata tutta la storia, che non è semplicissima. Non è bello arrivare all'episodio 349 e spiegargli tutti gli altri 348 a Tameto che non li segue. Quindi io annuncerei la sigla di Dragon Ball Z. Qui uno squilletto è d'obbligo, 0649 1750. Lo sai, però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai. Andrai nell'immensità, laggiù, incontro all'oscurità, finché tutto cambierà. Una nuova realtà con le sue verità scaverà. Dragon! Naturalmente, se siete cresciuti anche voi con queste sigle, insomma, mandateci un SMS al 342-35-74-357 anche per insultarci e per dirci basta con queste sigle. Perché se no monopolizziamo il palinsesto di Onda Rossa tutta la settimana Dragon Ball. Sì, era una minaccia, era una minaccia. L'oscurità splendente diverrà con te. Perché la tua fiamma ora... Comunque c'è, c'è un sound da paura. Se le parole non fossero quelle. Dragon Ball. A voglia. Tu lo sai, Dragon Ball. Per chi c'è. Ah, ma io ho capito perché non ci stanno squillando, perché chi ci guardava Dragon Ball adesso sta studiando, capito? Può essere. E nel frattempo ho la lacrimuccia. Le battute agghiaccianti di Debo. Cosa ci fa un chicco di caffè sotto la doccia? Si lavazza! Le battute agghiaccianti di Debo. Ma direi che torniamo subito alle cose serie. Prima la sigla di prima l'aveva scelta da DVX, nonostante da me fosse condivisa. Anche questa è condivisa da lui, ma mi è venuta in mente a me. Franklin, la tartaruga. Sento fortemente da questa sigla. Sei proprio un paraculo. Solo per... In diretta te ne vergogni, poi a casa la canti tutta, la prima strofa la sei tutta in memoria. Comunque, le colazioni più belle della mia vita, guarda, con questo cartone animato. Anche le mie. Tocca a volte bisogna cambiare per poi ritrovarsi un pochino più là. La risicata più grande è che adesso non lo possiamo più guardare, purtroppo. Parla per te. Ascolta sempre consigli, si lascia guidare sia dalla sua mamma sia dal suo papà. Assai curioso Franklin, tartaruga, che perciò si imbatte in mille novità. Ma lemme lemme com'è, impara al volo perché è sempre pronto a provare, non gli importa di sbagliare. Si lemme lemme com'è. Andare, si ferma e aspetta di farsi trainare. Ma per avanzare bisogna cambiare. E allora si arriva cingata perché non ha paura di chiedere, di domandare se c'è qualche cosa che vuole imparare. Così ascolta i consigli e si lascia guidare, sia dalla sua mamma sia dal suo papà. E dopo Franklin Tartaruga ritorniamo in diretta. Mi sa che abbiamo un po' stuccato con queste sigle. Vabbè, ma era per ridere, dai ragazzi, era soltanto per ridere. E allora, poi tanto Franklin e la Tartaruga hanno guardato tutti, secondo infatti, me. Infatti, e vi abbiamo ci siamo limitati perché volevamo mettere Pollon. Più che altro è perché poi diventa troppo malinconico, no? Il ricordo dell'infanzia, tutta una serie di ricordi che te la fanno più a male. Invece passiamo a una canzone un po' più seria, un argomento un po' più, diciamo, pensa corposo, che, no? Io penso che lo collegavo al ridere, appunto, di Franklin. Franklin? Io lo... Sì. Ma, Franklin un bel ricordo pure io, però boh, non lo so, magari non tutti, capito? Magari ricordi l'infanzia, un po' di nostalgia... Quei sentimenti così, no? Invece, a proposito di sentimenti, non il sentimento di nostalgia, ma un sentimento molto più profondo. Questa canzone è una dei miliardi che sono state scritte a proposito dell'amore, questo sentimento che prima o poi ci coglie tutti. E, in particolare è un bellissimo testo di Marco Masini, che è stato scritto sopra una base dei Metallica, se non sbaglio. Sì. E niente, la vorremmo dedicare a Otrebla, che da ormai un mese collabora con noi, e per questo lo ringraziamo, e anche alla nostra baronessa preferita. Coalina, è tutta tua. No, pure un po' d'Otrebla, dai. Lo so che il tempo lo sa, che siamo nascosti qua, in fuga dalla realtà, e chi se ne frega. L'iguana dei passi tuoi. L'iguana dei passi tuoi. Ma divisa orchidea, dove annegano gli occhi miei, e il tempo si ambigua. E il tempo si ambigua. Io da qui non mi muovo più, abbracciato a una croce tu, mentre il sole riallaga il blu, e chi se ne frega. Voglio quello che vuoi tu, voglio il tempo che non ho. Poi cani e la polizia, sparanzia e dietrologia, fa che insegua la nostra scia, e chi se ne frega. Io da qui non mi muovo più, neanche se te ne andassi tu, su quest'erba che guarda in su e sembra che prega. Oh, voglio quello che tu vuoi, voglio quello che vorrai. Voglio vivere di più, voglio il tempo che non ho, e l'avrò, sì. so che il tempo lo sa, che siamo nascosti qua, e se vuole ci raggiungerà, ma chi se ne frega. Beh, insomma, il tempo si ambigua. Ma molto poetico, io direi, no? Sì, sì. E... insomma, diversi filologi poi ci hanno dovuto lavorare, perché ci sono diverse interpretazioni di questo testo, non si riesce a capire bene se poi sparanzia. Che insomma, alla fine poi... dovrebbe essere semplicemente un difetto di linguaggio e dovrebbe essere spara... ansia, questa è l'ultima teoria della filosofia masiniana. Ah, vedi. Ci sono tanti studi che parlano di questo, però un testo veramente che ci dice quanta voglia abbia lui ancora di cantare, non tutti siamo d'accordo su questa affermazione. Allora, un pezzo che in questi giorni ci ha un po' fatto ballare, ci ha parecchio fatto compagnia e ancora ci fa sentire Utrebla in studio, io direi. Certo. Crea un po' di atmosfera, ve lo facciamo subito ascoltare, dei Toto, Africa. Squillarci prima del ritornello 06 491750. Genere diverso rispetto a Dragon Ball, però c'ha sempre quel che di sonorità anni 80, no? Cioè, comunque, diciamo, un minimo di collegamento c'è. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Tanto lo sappiamo che nelle vostre auto o nelle vostre case state facendo na na na na na na al ritornello, ma la state cantando tutti. Lo volevamo fare pure noi, però non ci è sembrato il caso. No, Tameto. No, Tameto. No, Tameto. Sì, sì, te tocca, dai. No, ti prego, sì, Tameto, per no. No, davvero, non no, ce Tameto, fare no. Ti non prego. Si, dici no? No. No? No. Ti prego, no. E invece no, sì. Fare. La pimpa. Tu sia maledetto. Con la pimpa raggiunge anche le generazioni prima di noi. Alla mattina s'alza dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole, gioca a pallone con il leone, all'ippopotamo dice buongiorno, saluta tutti quelli che ha intorno, ha tanti amici, 303. Perché? Perché la pimpa, ecco perché. Perché la pimpa, ecco perché. E con questo fantastico sottofondo ci cominciamo a salutare. Non sembrerà, però perché? Sono sempre gli 87.9 di Onda Rossa. No, perché? Che piano piano stiamo logorando da dentro ormai. Tu soggiorni che me sta logora da dentro. Non ne posso più di questa sigla. Dai, non è possibile. 18 precise precise, 5 secondi. 87.9 Radio Onda Rossa. In questo 10 giugno 2012 era Caffè Doppio, che torna come tutte le domeniche, domenica prossima dalle 17 alle 18. Prima o poi ti ucciderò, Tameto, ti ucciderò, l'ho detto e lo faccio. E mi sa che era una minaccia abbastanza veritiera. Dai, ricordaci i contatti di Wix. No. E dai, su. No. E dai, su. Va bene, dai, lo faccio. Ricordo il conto corrente postale di Radio Onda Rossa, intestato a Radio Onda Rossa, CCP 61804001. CCP naturalmente è conto corrente postale, eh? Sono io che leggo male, però... Intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma. Le vostre sottoscrizioni sono sempre le benvenute per questa radio che da 35 anni vive senza padroni e senza pubblicità. A questo punto un salutone a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e un particolare abbraccio per chi ci ascolta da dietro le sbarre. A domenica prossima, un saluto e un abbraccio. Ciao, aio! Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?